Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Io credo che ci sia un valore aggiunto nel lavorare e sviluppare un'idea nel tuo paese di origine. Io ho vissuto in Scandinavia e in paesi come l'America, questa è un'esperienza che mi ha arricchito molto, però ho trovato che vivere all'estero è bellissimo perché si arricchisce, ma soprattutto perché ti fa capire quello che tu hai a casa e quindi vale la pena fare un tentativo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Seconda cartolina in apertura di programma dal progetto Brain Back Umbria per il rientro di giovani imprenditori start-upper. Focus oggi sul controesodo di Gabriele Bellani, rientrato dalla Svezia con un progetto per portare innovazione nell'ambito della mobilità attraverso lo sviluppo di una sospensione intelligente nell'ambito automoto. Tra due settimane ascolterete l'ultima storia che abbiamo selezionato da Brain Back Umbria. La frase della settimana è copyright collettivo degli studenti delle associazioni UDS e Link Bari, tratta dalla lettera che hanno fatto recapitare al capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Tanti, troppi nostri coetanei scelgono di partire. Noi oggi scegliamo invece di restare, credendo nella possibilità di costruire un futuro diverso, ma sapendo che solo rispondendo a determinate domande, riaprendo i luoghi della formazione e arrestando le politiche di austerity, si potrà invertire la rotta presentataci come immodificabile, scrivono. E intanto la fuga dei migliori talenti italiani all'estero sbarca persino nella pubblicità. È partita nei giorni scorsi la campagna di un noto brand di abbigliamento nella quale i giovani protagonisti voltano le spalle a un paese indifferente alle loro aspettative e non curante del loro curricula per trovare un futuro all'estero. Bella ciao, questo l'emblematico titolo della campagna. L'Italia guarda al futuro che parte per l'estero, recita uno dei sette protagonisti. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga, perché tanto è una circolazione unidirezionale dall'Italia verso l'estero. Alessio Figalli, 29 anni, è docente universitario di matematica alla University of Texas negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Italia 79esima in classifica su 103 paesi per capacità di attrarre talenti dall'estero, lo afferma il Global Talent Competitiveness Index Adecco INSEAD. In classifica generale siamo 36esimi grazie a una migliore capacità di far crescere i talenti a scuola e in università. Federico Vione, CEO di Adecco Italia. Dobbiamo investire sul talento, il primo punto è attrarli. Bisogna avere dei progetti di medio e lungo periodo, sia come paese che come aziende. Bisogna offrire loro un'apertura verso l'esterno, che significa riuscire a sviluppare i giovani dandogli un orientamento anche a altri mercati, a altri contesti, perché ci confrontiamo con un mercato globale che deve essere conosciuto e che implica una diversa concezione, una diversa visione delle cose. Bisogna quindi incentivare la mobilità sociale. A proposito di attrattività, ha fatto flop secondo il Fatto Quotidiano il programma di rientro dei cervelli. La prima fase 2001-2006 ha riportato in Italia solamente 466 ricercatori, mentre la seconda, ripartita nel 2009, è riuscita a far tornare in un biennio solo 55 scienziati. Il giornale, in un'inchiesta separata, raffronta il caso italiano con quelli europei. Germania, Inghilterra e Svizzera puntano ad attrarre cervelli e talenti stranieri, mentre Polonia, Albania, Croazia e Belgio hanno avviato programmi per riportare a casa quelli emigrati. Sempre secondo il Fatto Quotidiano, gli italiani a Londra sono ormai 500.000. Siamo di fronte a una vera fuga, scrive Caterina Soffici. Negli ultimi 18 mesi sono sbarcate ufficialmente sull'isola 90.000 persone. Storie da un'Italia che migra e perde i suoi giovani migliori da nord a sud. Il quotidiano online Oggi Treviso denuncia come nel paese di Cordignano, pieno nord-est, ben il 32% dei giovani si è espatriato. Un'analisi Coldiretti segnala che oltre 1.000 giovani lombardi ogni anno emigrano per studio o lavoro. Secondo il sito ilfriuli.it, 5.000 friulani e giuliani, in gran parte giovani laureati, hanno trasferito all'estero la propria residenza nel 2012. Infine, su 2.900 laureati in discipline scientifiche all'Ateneo Federico II di Napoli, ben 472 hanno trovato lavoro all'estero. Ora si allarmano persino gli 007. Gli start-upper italiani preferiscono rivolgersi all'estero per sviluppare i propri progetti, lo riporta La Repubblica. L'11% dei nuovi imprenditori innovativi preferiscono Stati Uniti, Israele e Gran Bretagna per la maggiore facilità di reperimento dei finanziamenti. Secondo i servizi, questo fenomeno comporta perdite di opportunità in termini competitivi per l'Italia, connesse all'allocazione di know-how e capitale intellettuale in paesi esteri, connotati da un più attrattivo ambiente di investimento. C'è anche chi aiuta i giovani italiani a costruirsi un futuro oltre confine. Oggi vi parliamo dell'iniziativa portata avanti da un'associazione ponte tra Italia e Olanda. Obiettivo: aiutare i nostri talenti a trovare opportunità nei Paesi Bassi. Ci spiega tutto Erik Koijmans dell'associazione culturale Italia-Olanda-Fiandre. Noi vogliamo aiutare i giovani italiani che hanno questo obiettivo di andare in Olanda per crearsi un futuro, e il nostro supporto è generico, nel senso che il giovane ben determinato ha bisogno di un aiuto, magari a farsi strada sul mercato del lavoro, a trovare un'abitazione, a capire quali sono le necessità linguistiche, eccetera. Allora noi offriamo un specie di servizio di mentoring sul fronte di lavoro, da parte della nostra rete di contatti, anche la conoscenza di una serie di agenzie di recruiter. Quali sono i profili più richiesti al momento in Olanda? I profili tecnici. Tutte le info su acciofbologna.ninga.com o all'email futuronl@tiscali.it. E sarà inaugurata giovedì 5 dicembre al Museo Maxi di Roma la mostra Effetto Erasmus, la prima a esporre le opere dei nostri giovani architetti e progettisti emigrati. Alla mostra dedicheremo sabato prossimo una puntata speciale di Giovani Talenti, nel corso della quale regaleremo ai nostri ascoltatori 10 biglietti omaggio. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta nel sud degli Stati Uniti. Lo sapete che oltreoceano si può diventare professori universitari nel pieno dei 20 anni? Con tanti saluti a un'Italia vecchia e troppo spesso baronale. Nome: Alessio. Cognome: Di Galli. Età: 29 anni. Città di origine: Roma. Studi: laureato in matematica all'Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007. Per andare dove? Nizza. Perché? Preso un posto di ricercatore al CNR francese. Qual è il lavoro svolge attualmente? Professore ordinario di matematica. Dove? All'Università del Texas ad Austin. Tornerai? No. The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high. Deep in the heart of Texas. In Italia ci si mette in coda aspettando che il professore senior trovi un posto per i suoi studenti. Così non si insegna allo studente a sviluppare la propria ricerca in modo creativo e cercare incentivi autonomamente, anzi spesso le collaborazioni esterne sono mal viste. E poi c'è la totale incapacità di programmare nuovi reclutamenti a lungo termine. Spesso infine il criterio alla base delle assunzioni è l'anzianità, non il merito. Alessio, il tuo j'accuse al sistema italiano lo hai affidato nel 2011 al quotidiano La Stampa. 2 anni dopo, come vedi la situazione della nostra università? Purtroppo non ho visto miglioramenti. Sicuramente sono dinamiche molto complicate che non possono cambiare in 2 anni, perché dipendono sia dalle istituzioni, dal governo, ma anche poi dalla mentalità delle persone. Per ora non vedo nessun cambiamento, ma non mi stupisco. La tua storia ha dell'incredibile, almeno se la misuriamo con i parametri italiani. A soli 29 anni sei già professore ordinario negli Stati Uniti. Tutto comincia con gli studi al liceo classico, per paradosso. Per paradosso perché poi ottieni l'accesso alla prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa, ma in matematica. Allora, quanto è stato difficile passare dal settore umanistico a quello scientifico e perché lo hai fatto? La scelta del liceo classico fu un po' per caso. Passare sicuramente a studi scientifici è stato faticoso all'inizio, però la matematica è sempre stata una passione, quindi l'ho fatto con estremo piacere. 9 anni fa consegui la laurea triennale e poi prosegui sulla strada della specialistica. La SNS di Pisa è considerata una delle eccellenze nel panorama delle istituzioni superiori italiane. Sulla base delle tue esperienze successive tra Europa e Stati Uniti, quanto è vero? Quanto hai potuto sperimentarlo con mano? Sicuramente è verissimo. Gli studenti della normale sono ben riconosciuti all'estero. E anche sulla base delle tue esperienze successive, se ti fosse stata offerta la possibilità di studiare fin dall'inizio all'estero, col senno di poi, avresti scelto questa opzione? Francamente no. Sono convinto che l'università italiana sia ancora di primo livello, tuttora, quindi a livello di studi di laurea direi no. Nel 2005 inizia a tutti gli effetti la tua traversata verso una carriera all'estero. Tutto comincia con un corso che frequenti con un professore dell'università di Lione. Sei addirittura d'arrivo verso la tesi, accetti e parti per l'École Normale Supérieure. Quanto è stata fondamentale per te quell'esperienza e soprattutto qual è stato l'impatto con una realtà accademica straniera? Sul lato personale è stata sicuramente un'esperienza ottima. Sul lato universitario, diciamo, il corso di studi era abbastanza simile a quello italiano, non ho visto troppe differenze. Sicuramente è stato importante per me creare contatti all'estero e collaborazioni che poi mi sono state utili negli anni successivi. A Lione resti 5 mesi, nel giugno 2006 discuti la laurea specialistica e a quel punto si apre la strada del dottorato. In Italia molti tuoi colleghi lo considerano l'inizio di una lunga, faticosa trafila. Tu invece l'hai interpretato in un'ottica internazionale, perché entra in gioco ancora una volta la Francia. Come si svolse il tuo dottorato? Il mio dottorato si svolgeva al 50% in Italia, al 50% in Francia, tra Pisa e Lione. La rapidità con cui prende il volo la tua carriera è impressionante. Vieni allertato della possibilità di candidarti a una posizione di ricerca al CNRS francese, l'equivalente del CNR italiano. Ti candidi più per far circolare il tuo curriculum che per competere realmente, ma cosa succede invece? Quello fu un episodio ero abbastanza curioso, nel senso che tutti dicevano che non avevo speranze, e alla fine invece la commissione valutò che il mio curriculum valeva un posto da ricercatore, quindi mi classificarono primo. In tutta sincerità, Alessio, in Francia hai vinto quella posizione da ricercatore italiano e dunque straniero, quindi sconosciuto. In Italia sarebbe stato possibile? Per fortuna conoscevo in verità un po' di persone. Ora, il punto è sempre cosa vuol dire conoscere, nel senso che queste sono state persone che mi hanno stimato e quindi poi sono riuscito a ottenere un posto in Francia. In Italia sarebbe stato possibile? Così no. Presto? No. No, perché io avevo ancora una borsa di dottorato per 2 anni, quindi nessuno, secondo me, in Italia mi avrebbe dato un posto sapendo che io ho ancora uno stipendio garantito per 2 anni. Nell'ottobre 2007, a soli 23 anni, inizi a lavorare a Nizza come ricercatore, concludi il dottorato, dopodiché ti trasferisci all'École Polytechnique di Parigi in qualità di professore universitario ed è il settembre 2008. Ma il tuo profilo è talmente appetibile sul mercato accademico che dopo una breve esperienza ad Austin viene conteso anche dall'Università del Texas e anche da Princeton. A 24 anni, 3 università straniere, tutte di alto livello, ti vogliono reclutare. È questa la tanto decantata circolazione dei talenti, di cui in Italia sentiamo sempre parlare, ma che non pratichiamo mai o quasi mai? In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga, perché tanto è una circolazione unidirezionale dall'Italia verso l'estero. Si fanno tanti discorsi su voler attirare stranieri, sul rientro dei cervelli, però secondo me quello che si sta facendo fino adesso è molto poco, e poi soprattutto attirare stranieri mi pare un po' pretenzioso, considerato che non riusciamo neanche a tenerci i nostri. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. Tu scegli Austin scartando una destinazione prestigiosa come Princeton e lasciando di conseguenza anche la Francia e l'Europa. Perché? Soprattutto per accettare quale proposta professionale? L'idea di lasciare l'Europa è stata molto combattuta. Mi sono detto che se non avessi fatto in quel momento non l'avrei più fatto. Ad Austin c'è tuttora Luis Caffarelli, che dal mio punto di vista è uno dei migliori matematici mondiali, soprattutto per il campo dell'analisi matematica, e quindi per me la possibilità di averlo come collega è stata una motivazione sufficiente per andare a Austin. Ad Austin la tua carriera prende definitivamente il volo. Ci spieghi come in soli 2 anni, sei diventato professore ordinario, quindi a pieno titolo, e di cosa ti occupi ora in termini di ricerca? Quando arrivai a Austin, appunto, ci arrivai come professore associato nel 2009, poi quasi subito fui contattato da università europee per un posto da ordinario, e a quel punto fu molto naturale per Austin immediatamente, diciamo, reagire e promuovermi ordinario. Mi occupo di diversi settori dell'analisi. Poiché con te ci interessa analizzare problemi e provare a risolverli, andiamo sul concreto. Allora, partiamo da un documento che nel 2007 hai sottoscritto insieme ad altri ricercatori, spedendolo all'allora ministro Mussi. In quel documento denunciavate 3 grandi blocchi che affossavano e affossano i nostri atenei: modalità di reclutamento, mobilità, programmazione. Quali soluzioni avete proposto in breve? Modalità di reclutamento, bisogna che il merito sia sempre il criterio principale per assumere le persone, però i 2 problemi grossi che abbiamo analizzato in quel documento sono la mobilità, quindi il fatto che all'estero si incentiva sempre lo spostamento delle persone da una sede all'altra in tutte le tappe della formazione, cosa che non succede in Italia, dove le persone restano nella stessa università durante tutta la loro carriera, e quindi questo alimenta il sistema delle code e dei baronati. L'altro problema è la programmazione, il fatto che in Italia non si sa mai quando ci saranno nuovi posti, e quindi le persone si ritrovano a dover restare in una sorta di limbo per anni e anni, anche di 10, 15. Soluzioni: sicuramente incentivare la mobilità, favorire molto anche nei concorsi il fatto di avere collaborazioni con gruppi differenti. Sarebbe utilissimo far svolgere i concorsi sempre su scala nazionale, e poi l'errore principale sicuramente è il fatto di avere dei reclutamenti di massa, quindi avere un grosso concorsone in cui vengono assunte tantissime persone e poi per anni non c'è più nessuno. Sarebbe molto meglio avere tutti gli anni un numero minimo di posti garantito. A 29 anni, mentre migliaia di tuoi coetanei in Italia raccolgono le briciole lasciate spesso dai baroni, tu hai bruciato le tappe. Neanche un mese fa il ministro dell'istruzione Carrozza, dai nostri microfoni, ha invitato i professori anziani ad andare in pensione. Ti chiedo, è questo il tappo che ostruisce il rinnovamento dell'università? Sicuramente il fatto di avere tanti professori anziani non aiuta per poter assumere nuove persone. Non è questo il vero problema. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Purtroppo dall'estero si vede che l'Italia ha dei problemi, ne ha tanti. Proposte concrete, penso che quello che scrivemmo nel nostro documento nel 2007 sulla mobilità e la programmazione erano proposte concrete che purtroppo non sono mai state eseguite ancora. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessio Figalli, 29enne professore all'Università di Austin, Texas. Alessio, una carriera accademica percorsa alla velocità della luce, se paragonata ai ritmi italiani, si laurea in matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa prima di avviare un doppio dottorato tra Italia e Francia. 6 anni fa inizia a lavorare come ricercatore al CNRS di Nizza, prima di trasferirsi come docente all'École Polytechnique di Parigi. Nel 2009 la scelta di accettare l'offerta che arriva da Austin, preferendo la Princeton e alla stessa Parigi. Investimenti nell'insegnamento, mobilità di docenti e ricercatori, maggiore programmazione, queste alcune delle ricette che Alessio delinea per rilanciare l'università nella nostra penisola, superando i troppi baronati e rischio declino. Ci raggiunge ora in linea Luigi Ambrosio, professore di analisi matematica e preside della classe di scienze alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché relatore di tesi di Alessio Figalli. Buon pomeriggio. Buongiorno. Il problema dei giovani in Italia è drammatico. Il peggio che possa capitare a un paese in crisi è la fuga dei migliori giovani da quel paese. Queste sono le parole del presidente della conferenza dei rettori, Stefano Paleari, che ha rilanciato una rifondazione del settore sulla base dei giovani e merito. Allora, professor Ambrosio, non le sembrano un po' lacrime di coccodrillo, considerato come sono state gestite finora le nostre università? Guardi, la denuncia di Paleari è sacrosanta, secondo me. Diciamo, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Ora, io sono in un posto particolare, dal quale ho una visione particolare del mondo dell'università, però nella mia statistica personale la stragrande maggioranza dei miei allievi degli ultimi 10 anni è attualmente all'estero, quindi in questo momento, almeno nella fascia di elite, l'università fabbrica ricercatori che poi vende, tra virgolette, perché li vende a costo zero all'estero. E come diceva Alessio, non è tanto una circolazione, ma è un'uscita e basta, questo è il vero. Naturalmente non nascondo che ci siano state responsabilità dell'Accademia negli anni passati, i fenomeni di nepotismo sono sotto gli occhi di tutti, d'altro canto però bisogna anche capire che ci sono stati degli anni di vacche grasse in cui, come dire, era il legislatore stesso che determinava condizioni nelle quali venivano offerti meccanismi di reclutamento massicci e meccanismi anche di promozione interna massicci. Sono d'accordo con lei sul fatto che stiamo pagando errori clamorosi degli anni passati, ma questo a livello macro in Italia, non solo nell'università. Certo. Aggiungo delle cifre. Lo European Research Council ha reso noti quest'estate i grants 2013 destinati a giovani ricercatori a inizio carriera. L'Italia è solo decima. Quel che è peggio, solo il 7% dei vincitori delle borse ha scelto la penisola. 8 in tutto, uno solo straniero. E su 17 giovani ricercatori italiani che hanno vinto il grant, solo 7 sono rimasti a fare ricerca qui. Gli altri 10 sono all'estero. Allora, professor Ambrosio, dobbiamo rassegnarci al declino oppure lei crede che possiamo ancora virare verso una circolazione dei talenti? Guardi, io non mi rassegno al declino perché sono dentro questo sistema e in un certo senso sono obbligato all'ottimismo. Quali sono gli elementi, proprio parlando dei vincitori dei grant, quindi qui parliamo dell'eccellenza della ricerca italiana? Il gap salariale, l'incertezza sulle regole del gioco e poi un altro aspetto importante è l'efficienza amministrativa. So addirittura di alcuni vincitori di questi programmi ERC basati in Italia che poi alla fine hanno deciso di spostarsi perché non hanno trovato un atteggiamento collaborativo della propria amministrazione. Professor Ambrosio, in una battuta torno alla questione del ricambio generazionale ricollegandomi alla nostra intervista col ministro Carrozza. È tempo, secondo lei, di un ricambio generazionale nella nostra università, in una battuta? Questo secondo me è un falso problema, lo dico in maniera molto netta, anche perché in questo momento il turnover è bloccato o è comunque fortemente ridotto. Io guarderei piuttosto a una maggiore articolazione tra i ruoli, far vedere che il problema ora è questa massiccia presenza di professori anziani, secondo me è un falso problema. Molti sono già andati in pensione. Grazie a professor Luigi Ambrosio. E domanda di rito per Alessio Figalli. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il fatto di andare all'estero è un'occasione ottima, è un'esperienza unica che consiglierei a tutti, e anche se si volesse tornare in Italia è comunque un arricchimento poi per il nostro paese, perché queste persone riporterebbero questa cultura in Italia. Sicuramente ci vuole coraggio, ci vuole una forte motivazione, però se uno ci sta pensando gli direi di farlo subito senza esitare troppo, ne vale la pena. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere di progetto per Jaguar Land Rover nelle Midlands, Gran Bretagna, scadenza per i CV 31 dicembre, info su jaguarlandrovercareers.com. Un Communication and Media Officer allo Euro-Mediterranean Human Rights Network a Bruxelles, scadenza per i CV 7 dicembre, info su euromedrights.net. E infine una posizione di assistente alla ricerca nel settore economia allo Europe Research Center di Parigi, scadenza per i CV 15 dicembre, curricula researchparis@eurojobsites.eu. e siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi, ultimo sabato di novembre, la consueta finestra sulle lettere che voi ascoltatori inviate ogni giorno a giovanitalenti@radio24.it. Vi proponiamo la splendida missiva di Andrea che ci suggerisce un'amara riflessione sul perché i nostri migliori giovani emigrano, riflessione nella quale si specchia il fallimento di un'intera classe dirigente. E se ci avessero chiesto di rimanere? Quante volte mi sono fatto questa domanda, quel giorno che, guardando il mare di Savona farsi via via più scuro, gettavo gli occhi sugli ultimi squarci di Costa Ligure, che si facevano sempre più sottili. Ero sulla Costa Serena, passeggero moderno e testimone diretto di una storica e ciclica attività che gli italiani conoscono bene, molto bene. L'emigrazione. Navigazione oceanica sulla rotta Savona-Buenos Aires. I nostri trisnonni sognavano. Partivano sognando una vita migliore. E oggi, i governi succedutisi in questi anni, che hanno fatto per chiederci di rimanere? I nostri genitori, i nostri nonni, i nostri zii, che potevano dire per farci cambiare idea? Mi viene da pensare che i governi italiani d'oggi, come quelli del secolo scorso, abbiano fatto due conti e abbiano capito che l'atto di emigrare possa essere anche oggi una buona forma per far sfogare il forte accumulo di tensione sociale di questi ultimi anni. Ma sarebbe un ragionamento troppo complesso. Invece penso che dovrebbero farlo uno sforzo, cioè disporre in ogni aeroporto e porto d'Italia dei moduli statistici, in modo che ogni cittadino in partenza e con l'intenzione di spostare la propria residenza all'estero possa porre la propria crocetta sopra i motivi della sua emigrazione. In questo modo scoprirebbero, i nostri governanti, un mondo sconosciuto e vasto di soprusi sociali, inefficienze burocratiche, stanchezza morale, depressione generazionale, aspettative professionali infrante. La domanda che avrebbero dovuto farci prima di lasciarci partire sarebbe stata: perché non resti? E la risposta sarebbe stata semplice e inequivocabile. Dopo aver vissuto nella bambagia degli anni 80 e 90, ingrassati dai nostri genitori con mille attenzioni, nell'epoca dell'opulenza non necessitavamo di pensare ad altro, perché il nostro futuro era quasi scritto. Poi la verità è venuta a galla. Abbiamo vissuto due decenni di aspettative, ci siamo cullati dentro la grande farsa di stare bene, di vivere in un paese tra i primi al mondo, di essere sicuri delle nostre future pensioni, di aver potuto dare anche ai nostri futuri figli tutto quello che era stato dato a noi. Questo grande palloncino, all'alba del nuovo millennio, è scoppiato al primo colpo di vento forte. Ci siamo ritrovati in una realtà rapida, esigente, a metà strada della scala sociale, accorgendoci che quest'ultima iniziava a scendere invece che salire. La colpa è stata nostra. È stata nostra fino alla fine. La risposta sarebbe stata: perché in Italia non ci si può più permettere di sognare. E quando finiscono i sogni, le aspettative e le idee di fare qualcosa di nuovo, qualcuno scappa. Io sono scappato perché avevo tutto, ma non avevo più sogni. Un motivo per restare o tornare. Si chiama Come On Connecting Talents, un interessante progetto che ha portato sulle rive del lago Lariano 15 giovani designer, neolaureati e creativi, da Gran Bretagna, Svezia, Giappone e Cina per lavorare in altrettante aziende del settore tessile e moda, sviluppando così nuove idee e prodotti. Tutte le info a comeon-co.it. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.isole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Ritornare ma come? Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è: di fronte al rischio declino, l'Italia rivuole i suoi talenti ora all'estero o dice di rivolerli? Le mosse degli ultimi due governi vi convincono? Cosa fare di più? Cosa chiedete in tre concreti punti al sistema Italia per tornare? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 per una puntata speciale. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Navarro.